Rosario Montalbano. L'odore della notte di Andrea Camilleri. Sceneggiatura in 10 puntate di Francesco Bruni e Salvatore De Mola. Regia di Alberto Sironi. Settima puntata. A Montalbano non pareva logico che nelle valigie di Pellegrino non si fosse trovato un foglio, un pezzo di carta, una liccia, un'agenda. Decise allora di andare a farsi una chiacchierata con la sua ex padrona di casa, la signora Catarina. Qui è? Ah, signora, il commissario Montalbano sono. Scusate, non posso fare il cessere perché sono in disabilie. Le volevo fare solo qualche domanda. Buongiorno. Senta signora, le volevo chiedere questo. Giacomo Pellegrino, quando se n'è andato, lei mi ha detto che aveva due valigie grandi, no? Sì. Si ricorda se aveva qualche altra cosa con sé? Sì, aveva una valigetta nica però, ci teneva carte. Carte? E lei come fa a saperlo? Una volta per casa vita aperta c'erano fogli, litri, agende e magari una poco ricocciate neuri per il computer. Ah, dischetti? Quindi Giacomo Pellegrino aveva anche un computer portatile. Certo, quando aveva, si buttava sempre appresso. E ce l'aveva con lui? E che facevamo? La stava mia? Invece. E ora, signor commissario, sono una vendicchia che domani me la saluto. Grazie. Arrivederla, signora. Supponiamo per il momento che Pellegrino se ne è scappato all'estero. La prima domanda è per quale motivo. Lui con la truffa di Gargano non c'entrava praticamente niente. E se non c'entrava niente con la truffa di Gargano, commissario, sorge anche la seconda domanda. Con quali soldi questo Cristiano si è comprato prima e ha ristrutturato poi la villetta? Non lo so. Il fatto della villetta sta a significare che Pellegrino ha comunque intenzione di tornare. A meno che non è successo qualche cosa che l'ha spinto a fuggirsene per sempre fottendosene della villetta. Ah, e poi c'è un'altra cosa, commissario. Il motorino, che fine ha fatto? E che ne so, ce l'aveva lo zio. No, perché l'altro giorno, quando lo zio è venuto in commissariato, si ricorda? Voleva denunciare magari la scomparsa del motorino. E l'ha fatto? No, perché non si ricordava la targa, non si ricordava il modello. A dire la verità non si ricordava neanche esattamente se era ancora lì. E alla fine ha lasciato te. Esatto. Fazio? Sì? Come si chiamava quello che vedeva i dischi volanti, la ghiazza a testa e via dicendo? Ah, Antonino Tommasino. Ma quello è un pazzo scatenato, commissario, non c'è da fare affidamento su quello che dice. Ho capito, abbiamo alternative. No, ma non abbiamo alternative. Dove lo trovo? Le faccio una piantina. Senti, puoi fare un'altra cosa. Fatti un giro per tutte le banche dei Vegate e cerca di scoprire il più possibile sulla situazione economica e finanziaria di Giacomo Pellegrino. Quanti soldi aveva, quello che ci faceva, se ha avuto versamenti sospetti, insomma tutto quello che riesce a scoprire, d'accordo? Va bene, commissario. Vai, vai. No, un momento, commissario, deve essere precisa. Mi devi fare una piantina, non una pittura. Ho capito, ma non è facile arrivarci, magari mi si perde. Ma che mi si perde? Ecco qua. Tommasino Antonino, o Antonino Tommasino, se la fotte lui come si chiamava, abitava in campagna, dalle parti di Montereale, e quindi non era tanto distante da Vigata. Il problema era scegliere la strada giusta, perché era facile perdersi in una sorta di deserto senza manco un arbolo e cicatrizzato da viottoli, tracce di cingolati e interrotto qua e là da qualche rara casa di campagna. Girò tre o quattro volte dinci al deserto, tornando sempre al punto di prima. La cartina di Fazio era troppo generica. Visto si è perso, puntò decisamente verso una specie di casale. Fermò, scinnì, la porta era aperta. Si può? È permesso? Prego. Ah, signora, ho trovato la porta aperta, ho suonato anche il campanello, ma... Il campanello non funziona, non si preoccupi. Ho anche chiamato. Non si preoccupi. Non mi preoccupo. Il commissario Montalbano, sono molto lieto. Ah. Volevo parlare con il signor Antonino Tommasino. Ah, certo, io sono la moglie. Ah. Venga, l'accompagno. Grazie. Venga, venga, commissario, venga. Venga. Nino? Venga, commissario. Nino? Nino? Nino? C'è il commissario Montalbano che ti vuole parlare. Ho un piacere di conoscerla, commissario. Molto lieto. Prego, s'accomodi. Bene, vi lascio soli. Un caffè, commissario? No, signora, grazie mille. Ah. Prego. La ringrazio, mi dispiace di disturbarla. Che cosa sta leggendo di bello? È il cosiddetto libro di Ruggero, di Idrisi. Di Idrisi? Già, un geografo arabo. Ah. Mi è una curiosità, commissario. Che cosa le hanno detto di me? Mi hanno detto che lei spesso e volentieri vede cose stramme e inesistenti. È una persona gentile, commissario. In parole povere le hanno detto che sono pazzo. Lei dice bene, commissario. Da qualche anno mi capita di vedere delle cose inesistenti. Io ho un nipote, Michele. A volte ci mettiamo a giocare proprio qui davanti alla casa in uno spiazzo. Un giorno Michele, mentre stavamo giocando, ha cominciato a fare voci. Mi diceva che lo spiazzo era pieno di draghi terribili e furiosi. Io, per stare al gioco, ho cominciato a gridare di paura, tanto che il piccerino si spaventò del mio scanto e ha cercato di tranquillizzarmi. Nonno, nonno, mi ha detto, i draghi non esistono, non devi spaventarti. Sono io che me le sono inventati per gioco. Vede, commissario, da qualche anno io sono come mio nipote Michele. Nella stessa situazione. Mi capita di vedere delle cose inesistenti e le vedo per un pezzo. Poi ad un certo punto mi rendo conto che sono inesistenti. E mi passa. Sono stato chiaro fin qua, commissario? Chiarissimo. Le posso chiedere, commissario, che cosa le hanno detto che ho visto? Un mostro marino a tre teste e dei dischi volanti. Il nano venusiano, se lo sono scordato. Parla di sì. Lei è d'accordo con me, commissario, che queste sono tutte cose che non esistono? Certo. Bene. Ma se io vengo da lei, commissario, e le dico, guarda che io l'altra notte ho visto una macchina così e così. Lei perché non deve credermi? La macchina non è cosa di fantasia, è una cosa inesistente. Io le sto parlando di un oggetto di tutti i giorni, una macchina con quattro ruote, con una targa. Non le sto dicendo di aver visto un nano venusiano. Mi porti nel posto dove ha visto l'auto di Gargano. Era bastato quel poco tempo passato dentro la casa perché il tempo cangiasse. Si era levato un vento bilioso, freddo, con folate che parevano zampate di bestia inferocita. Lei è sicuro che il posto è questo? Sì, sì, è proprio questo. La macchina dov'era? La macchina era proprio lì. Ah. E che fosse la notte tra il 31 agosto e il 1 settembre, è sicuro? La mano sul fuoco. Ah. Mi scusi se insisto, ma è molto importante. Lei come fa a esserne così sicuro? È perché quando ho visto la macchina ho pensato che il giorno appresso, il primo di settembre, Gargano sarebbe venuto a pagarmi gli interessi. Professore, non mi dica che anche lei è vittima di Gargano. Sì, ci sono caduto come un fesso. 20.000 euro mi ha tappiato. È per questo che quando ho visto la macchina mi sono meravigliato, sa, però ero anche contento perché pensavo che sarebbe stato di parola. Invece il giorno appresso mi hanno detto che non si era visto a pagare gli interessi. E perché si è meravigliato quando ha visto la macchina? Per il posto, prima di tutto. E poi per l'ora. Era certamente la mezzanotte passata. Guardò l'orologio? Non porto orologio, commissario. Di giorno mi regolo con il sole. Quando è scuro, con l'odore della notte. L'odore della notte? Già. Perché la notte ha un odore? Ogni ora della notte cancia odore. Ci faccia caso, commissario. La macchina era proprio lì, con il muso rivolto verso il mare. È sicuro che fosse la macchina di Gargano? Una BMW serie 5. È la stessa macchina con la quale lo scorso anno è venuto a fottermi i soldi. Ma magari era in compagnia, si voleva appartare, no? No, non credo. Non è un posto molto tranquillo questo. 2 anni fa vi è stata aggredita una coppietta, non so se si ricorda. E poi ho pensato, con la posizione che ha, con i soldi che tiene, che bisogno ha di mettersi a fottere in macchina come un picciottazzo. Beh, certo. Senta, professore, lei è padronissimo di non rispondere, ma lei che ci faceva a quell'ora di notte in un posto come questo? Di notte io cammino. Da casa mia qui vi saranno 20 minuti di cammino di buon passo. Io venivo da quella parte, per cui sono passato proprio dietro la macchina. C'era qualcuno nell'abitacolo? No, non mi è sembrato. A meno che non fossero già dentro e vedendo l'ombra che si avvicinava si siano abbassati. Il cielo aveva fatto improvvisamente occhio e in quel momento il commissario notò una cosa che solo quel particolare taglio della luce aveva potuto mettere in evidenza. Sentì un brivido di freddo. Il ben conosciuto campanello principiò a suonargli nel cerebello. Il commissario Montalbano, l'odore della notte. Con Luca Zingaretti, commissario Montalbano, e Michele Gammino, voce narrante. E con Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Gioacchino Vassallo. Musiche originali di Franco Piersanti. L'odore della notte di Andrea Camilleri è pubblicato da Sellerio, posta elettronica, sceneggiato, chiocciolarai.it.